voglio fare un pezzo contento, che la gente mi chiama e mi dica che bello. Trap star, baby, sono una star, baby, nuova scarpa, ai piedi sto uscendo. E lei pensa quello che pensa, mentre vivo quello che vivo, sostanze sulla mia coscienza. Comunque sono pulito e non posso starne senza. Ti cerco di continuo, diamanti fanno una dance, ballano fino a mattino. Ok, la star, baby, sono fresh da testa ai piedi, giro piazza, baby, lì sono passato ieri. Nuova scarpa, ai piedi, palme e angioletti, fumo un bag, grosso e grosso, questo di come lo vedi. Ho un nuovo drip, sparso nella mia stanza, tennis di diamanti, sono al mare in vacanza. Ho un nuovo drip, perché non è mai abbastanza, ho comprato questi jeans e non so manco la marca. Ho un nuovo drip, sparso nella mia stanza, tennis di diamanti, sono al mare in vacanza. Ho un nuovo drip, perché non è mai abbastanza, ho scarpe nuove, non guardo più la marca. Ho questo nuovo drip, Balenciaga Leaks, tennis al mio collo, sai che sono supreme, sai che A più B non fa 100, ma tu puoi lo stesso crederci per davvero. Ok, soldi al vento, non è Beverly Hills, sono happy, happy B, son contento. Yeah, martedì, ieri era lunedì, io sono sempre sul tempo, mi trovi sempre qui. Ok, ok, brucia il cemento da quando ero un nanetto, lei che mi chiama Elo, io che la chiamo a stento. È tutto bello e vero, chiudi gli occhi un momento, puoi vedermi intero se entro nello schermo. Ok, ok, m'ero felice lo stesso, anche senza euro quelle scarpe erano il meglio. Non è come dice lei, baby, guardami adesso. Ho un nuovo drip, sparso nella mia stanza, tennis di diamanti, sono al mare in vacanza. Ho un nuovo drip, perché non è mai abbastanza, ho comprato questi jeans e non so manco la.